soffitto, ti vorrei accanto, perché quando non sei con me mi manchi così tanto. Non sento il tuo respiro sul mio petto, non avverto la sensazione che tutto sia perfetto. E vorrei sapere in questo istante cosa fai, e vorrei chiederti un milione di cose, ma già le sai, perché tu sai sempre cosa penso, come mi sento, sai cosa dire, come agire, tu mi leggi dentro. Non c'è bisogno di parlare, a noi basta uno sguardo. Io ti amo di più ogni volta che ti guardo. Sai rendere speciale anche una cosa banale, sai rendere migliore il mondo perché tu sai amare. Adoro quando fai la voce da bambina, da quando sto con te niente è più come prima. Come prima. Gli altri possono giudicarci, deriderci, ma mai nessuno sarà in grado di dividerci. Vedo in ogni gesto, ogni luogo, ogni suono, e anche grazie a te che oggi sono quello che sono. Potrei vivere 100 vite, 100 volte innamorarmi di te, che sei l'unica che sa come trattarmi. Io non so come fai, però mi fai bene. Io so che siamo fatti per stare insieme. Il mondo può anche continuare a non capirci, tanto siamo solo io e te, non esiste nient'altro. Un sentimento che subito ci ha rapito, ma come ogni cosa bella il nostro amore non sempre viene capito. Io non do retta a nessuno, vivo per me stesso, il futuro verrà dopo. Sei tu ciò che voglio adesso, anche non trovo le parole per dirti cosa provo. Quando la notte ti cerco nel letto e non ti trovo, io ti amavo il primo giorno come ti amo ora. E quando ti guardo negli occhi mi emoziono ancora. Forse non te l'ho detto mai che nessun'altra prima mi era stata accanto come lo fai tu, che nessun'altra prima mi aveva mai detto tanto. Forse non te l'ho detto mai che io non ho amato mai nessun'altra prima. Mi ha insegnato ad essere fiero di ciò che sono. Solo tu mi fai sentire un vero uomo. Se soffriremo lotteremo, non mi preoccupa affatto. Insieme superiamo tutto come abbiamo sempre fatto. Ti vedo in ogni gesto, ogni luogo, ogni suono, e anche grazie a te che oggi sono quello che sono. Potrei vivere 100 vite, 100 volte innamorarmi di te, che sei l'unica che sa come trattarmi. Io non so come fai, però mi fai bene. Io so che siamo fatti per stare insieme. Il mondo può anche continuare a non capirci, tanto siamo solo io e te, non esiste niente. Ancora stento a credere di essere così fortunato per ciò che la vita mi ha dato. Non so se l'ho meritato, ma tu hai sempre appoggiato quello che faccio. Sai come colmare un vuoto con un abbraccio. Tu solo mi conosci veramente appieno, e sai quando sto male come farmi tornare sereno. Voglio realizzare ogni tuo desiderio, viaggiare, guardare il mondo insieme. Vorrei sul serio che un giorno potessimo essere liberi come gli altri, lontani dai pregiudizi, lontani dagli sguardi, per chiamare con il timore che possa finire, come vivere con la paura di morire. Anche se finisse domani io non mi pentirei di niente. Quello che provo per te secondo me vivrà per sempre. Volevo ringraziarti per tutto ciò che mi hai dato, ogni giorno passato insieme, grazie per come mi hai amato. Ti vedo in ogni gesto, ogni luogo, ogni suono, e anche grazie a te che oggi sono quello che sono. Potrei vivere 100 vite, 100 volte innamorarmi di te, che sei l'unica che sa come trattarmi. Io non so come fai, però mi fai bene. Io so che siamo fatti per stare insieme. Il mondo può anche continuare a non capirci, tanto siamo solo io e te, non esiste nient'altro.